mio Tony, eccomi, avanti. Tony. Da Tony avanti chi fischia? Chi è che occupa il 10 dei condomini? Da Tony, avanti. C'è qualcuno sul 10 in ascolto? Qualsiasi tipo di mira. Chi è avanti? Fuga! Allora, non ti ascolto bene, c'è la radio tutta messa male. Ancora? No, adesso sei più comprensibile. Poco fa non si comprendia nulla. Ma come fa? Quando mai non rimane stabile la radio? No, perché sto, ho messo questo microfono da studio. Capito? Forse era troppo forte. Adesso ho staccato il processore. Adesso già va bene. Troppo forte. Vabbè, io mi regolo in cuffia, ma in cuffia sai com'è. Ti ho mandato un messaggio, però non mi ha risposto. No, perché c'ho il computer spento. Aspetta un attimo. Ok, guardo. Ti ho mandato su WhatsApp. Cosa c'entra il computer? Perché ce l'ho sul computer io. Chi capita? Ognuno che ha il mio computer va a leggere i messaggi di WhatsApp. Ce l'ho lì, ma perché almeno si vede grande, capito? Ce l'ho nel computer io. Ah, nel cellulare non ce l'hai? Sì che ce l'ho, ma il cellulare non ha mai du mai, il cellulare. Dato che ce l'ho nel computer, me lo guardo nel computer, c'ho altri messaggi pure da quelli della sezione. Aspetta un attimo, Luca, devo andare in bagno. Figlia. Gianni, attenzione, doppio. Gianni, doppio ru. Gianni. Gianni. Attenzione, Gianni. Gianni. Ebbene, Natalia, penso di sì. No, stavo leggendo un messaggio, capito? Sì, te l'ho mandato. Sì, ce l'ho letto. Per me. Vabbè, quando vuoi. Poi già mi sistemo io, capito? Già mi sistemo io pure. Anda bene, Neda. C'è anche una permuta, se ti può interessare. Con questo, capito? Vabbè, se ti può interessare. Chiara. Io chi, dai, ne parliamo da altre parti. Seglia, va bene, ma adesso va bene la radio, perché io sono in cuffia e mi sembra che vada bene. Se attacco il processore no, devo abbassare il microfono da studio, capito? Aspetta. Allora, così a uno, il microfono, così a due, così a 4 il microfono da studio, com'è? Va benissimo anche a 4. È chiara. Chiara, però senza attaccare il processore, perché sennò facciamo danno. Io mi ascolto in cuffia, a me va bene, sta pompando parecchio, però sta cazzo, tu mi dici che è meglio, perché sennò devo abbassare parecchio dal coso. Eia, va bene. Andrà bene me, aspetta un attimo. Sì, fai. Questa è la base del 60, però è il microfono da studio collegato al mix. Chi ha la gara? Vediamo un po' gli altri bassi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Questo è il deferito. 1, 2, 3. Radio 4. 14, quella che è in vendita, processore disinserito, processore inserito, radio tirata a morte. Sono rientrato, Come entri? Non si è compreso un tubo. Non si capiva, vabbè. Quanta metri? 20. Ma forse lo manda in saturazione. Cioè lo manda... Forse era troppo vicino e il volume è troppo alto, capite? Per quello che si capiva. Beh, perché la cassa col microfono da studio, la cassa del ricevitore sarà 20 cm. Non mi posso spostare il microfono da studio, ma ho abbassato il volume. Si sente meglio adesso. Quando parli tu già si capisce bene. È una decisione amorosa. Capisco. I familiari non ci stanno, credono assolutamente il voto. E forse è troppo potente quello da studio. È potente giù, se sono col processore disinserito, se inserisco il processore. È una cannonata il suo microfono. Una bomba. Poi posso regolare dal mixer, vedi? Alti, bassi, medi. Ola. Cavagallo, è tutto Roggero. Mi scoppia la bomba a me. Ti ho telefonato a Mesina per vedere se ti aveva visto. Sono alla ricerca. Sto cercando. Se descendi, io faccio mutandi brutti da Vindica, né voi. Io sto cercando un'altra macchina, quella ormai è andata. Prenditi la mia che è parcheggiata, qua dietro. Ma già l'ho trovata. L'ho trovata, me la portano, noi dico se tutto va bene. C'è Natalino anche, non so se vi ascoltate, ma penso di sì. Natalino, lo senti? Sì, a Claudio. Già lo sente, perché non lo sento? Perché sei sardo. Ah, per quello è. Ciao Natalino. Ciao Claudio. A te l'immagini, mi ha detto che sono sardo, mi ha detto questo Luca. Ma te lo puoi immaginare? Beh, qui siamo tutti sardi, insomma. Ma lui me l'ha detto in tono dispregiativo, che non ti sentivo perché ero sardo, mi ha detto. Poter accedere a è sardo un orecchio. Vabbè, scherzava, dai. Secondo me questo Luca è cuocuomane. Secondo me è un po' magone questo Luca. Quello tu lo sai. Comunque è leggermente impastata, non è bella chiara, limpida, è un pochettino impastata. Devo abbassare ancora, così meglio va da te. A sentire ti sento benissimo, è la tua voce che sei un pochettino cupa, cioè, ci mancano gli acuti, capito? Ma è un po' cupa. Basta dirlo, se almeno me lo dite. Guarda così, sto regolando dal mixer. Va già meglio. Allora, aspetta che abbasso i bassi allora. Ok. E aumento i medi. Vedi un po' com'è adesso? Ti piace così? Sì, migliore. Adesso è più la voce tua, eh? Vabbè. Già ce n'è da regolare qua, capito? Nel mixer, così che... Guarda adesso se è peggio o meglio. Va sempre bene. Kappa. Diamo un po' di volume, vediamo un po'. Vai Natalino. Ma sotto c'è un po' l'alternata, deve essere quel mixer. Ma ce lo dico. No, non è l'alternato, cioè la ventola della radio, perché il microfono, questo qua lavora a 360 gradi, così che prende tutto ciò che lo circonda, capito? È la ventola della radio, perché se ti metti a 60 non la senti neanche. 60 è più bello. Ma piovendo lì da voi, chi è che è entrato? È entrato qualcun altro? Tutti spariti. E cos'è? È mancata la corrente? No, io sono sempre in ascolto, è che uno ha messo la portante però non è uscito di radio. Oh, Luca è sparito. Sarà inciappugliando col cacciavite, c'ha sempre il cacciavite in mano quello. Ma lo vedi che è un cuocuomane? Ma vabbè, almeno ci prova, dai. Almeno si diverte, ci passa il tempo. Ma ha detto anche che è gay, mi ha detto. Natalie. Oh. Questo è 60, attaccato alla radio. Una sciaguba este. Ragava, vedi che la ventola quasi non si sente. Ecco, vedi non si sente la ventola. Peccato che non ce l'ho, quello lì, qua. Se no te l'avrei fatto sentire come c'è in aereo mio. Faccia di Gaia. Ma perché non ce l'hai lì? No, il 21 devo dare l'esame, cosa? Mi tengo la roba no. Ti fanno girare la telecamera per vedere se sei da solo e tutto. Ma devi mettere l'auricolare e qualcuno ti dà le risposte. Se si inabizzano i bogu bogu uguale. No, lo devo regolare. Ci sono quegli apparecchietti per i sordi che non si vedono neanche. Vabbè, ma se se ne accorgono poco a poco che qualcuno ti dà le risposte via auricolare, sono cavoli. Si bruciano in partenza. Lui gatta a un orario buono mi danno da dalle 3, dopo mangiato. So che mia moglie è in Finlandia, si muoce in Italia. A che ti biglia sonno una parita? Tu dici, ma io devo fare il riposino a quell'ora, mi prendete male così, mi prende male. Ah vai, io vi lo dico così li posso ridire. Gli abbiamo raccontato. Ebbene, durante la digestione non è molto buono. Mi state bloccando la digestione, io a quest'ora faccio la siesta. Allora diglielo, io a quest'ora stacco la connessione e non mi devi dire. Anzi l'immagine a dirgli così. E glielo dici, se sto bocciato è per colpa vostra, perché mi avete dato l'orario dove io non sono connesso. E infatti, quando io non sono connesso, voi mi avete bocciato per quello, perché non ero connesso. Comunque ho sentito che già sono bravi e ne stanno promuovendo molti. Noi nella sezione nostra siamo in 8 solo, eravamo più di 20, tutti animulladug. Peccato, magari non si sentivano pronti. No, magari erano impegnati o non ne avevano voglia, come hanno visto che gli veniva un po' in salita, si sono spaventati e si sono avviati. Magari erano anche impegnati, uno perlomeno era impegnato e stava lavorando fuori e quindi non poteva frequentare, capito? Io sono iscritto alla sezione di Porto Torre, Zecla. Sono sempre stato iscritto lì, anche là, anche l'altra volta che l'ho dato, cioè non l'avevo dato la volta che ero iscritto lì a Porto Torres. Il corso lo stanno facendo quelli di Porto Torres, hai capito? Sì, ma mi sembra che ero qua lì a Sascia, è vero? Sì signore, c'era la sezione, quella di Papatango, capito? Ho capito. Come si chiama Antonio? sì, il presidente Antonio Solinas. Sì, sì, già si fa in gamba, è molto in gamba. È in gamba, molto preparato, viene anche Antonio Marchesi, viene. Veniva ai primi tempi anche Nando, veniva, capito? Nando lo stesso molto preparato, anche per le normative, ci ha spiegato un sacco di cose. E tutta gente preparata e bravi sono, là. Antonio è una bravissima persona. Sì, sì. Ascolta, ma a che cosa si è presentato? Tino, so che doveva dare l'esame, anche lui. E chi Tino? E Tino, ma non so come fa di nominativo. Boh, se non sbaglio mi sembra che fa muscolo, può essere. No, negativo, non si è presentato quello. Ha detto che era quasi pronto, andava bene, si è tirato indietro. Quello non si è presentato per nulla, evidentemente era impegnato anche lui. Molta gente lavora e non ha gana, Mino. Boh, mi sa che alla prossima sessione l'altra che è, mi presento anch'io. Davvero? Sono 50 anni che la sto facendo e alla fine la farò anch'io. Falla, Cla. Ma alla fine di cosa, Cla? Vabbè, alla fine della carriera radiantistica, dai, come aumenti le voci, ma vabbè, già c'ho ancora un po' di anni avanti, però, insomma, ci vorrei provare, sì. Ah, io Luca, anche tu, dai Gatto, almeno tu ne sai lo stesso, Gatto, perché non la fai? Io mi sono presentato, Natalia, ho detto buongiorno, sono Tizio e Tizio. Però non mi hanno promosso, dice presentati, mi sono presentato, e se già mi conoscevano lo stesso, non è che... Ah, Monilli, anche a me hanno fatto la stessa cosa per due volte. Ma se l'avrebbero fatta a Quiz come era prima, mi presenterei anche subito, passerei al volo, ma orale... È un po' un problema, mi impappuccio, non è che non le so le cose, ma mi scombina un po'. Una cosa che è più facile, su internet è più facile, non ne fanno più, questa solo la fanno, a quanto ho capito, online. Secondo me è più facile perché ti fanno 5 domande, ti fanno, se rispondi sei promosso, ma sai, non devi stare anch'io a fare 60 domande più il compito, come è successo a me, è più facile, là. Dice che sono anche bravi questi qui, non lo so, adesso vediamo, quando do l'esame io te lo saprò dire, là. A me mi ha detto che sei incozzato fuochi, Natali, infatti ti hai già comprato l'antenna, tutto quanto, non sei nulla, no? Incozzato io? Oh, assolutamente no, te lo giuro che non esca da qua se ho incozzi, da nessuno proprio, io non conosco nessuno mio, Luca. Ah, a me mi ha detto Natali non passa al 1000 per 1000 perché ci sono buone parole, hai capito? Allora ha detto, ma cosa, c'era già pigliato un'antenna, tutto pronto, la pone in macchina, ma l'hai detto, ha detto, allora ma cosa di grida, ha pigliato tutta l'attrezzatura. Bravo, hai fatto bene. No, chi so è, commenti la storia degli apparecchi che mi stavi dicendo tu. Sono solo Ruggia Ramedi, ti giuro cazzo che non esca da qui se io conosco qualcuno che mi possa mettere buone parole, come stai dicendo tu. Io si passo e a chi agi studiate, ma giù va turbura vero, caro lei. È la stessa cosa, già la metti, insomma. Che sempre qualcuno ha che cosa da dire, non sa cosa va, e allora fa vita alla grande. Sa fa un raggio di calore. Io vabbè, quando poi ho sentito così, che mi ha detto così, ho fatto, sai, 2+2, perché poi in quel periodo sai, hai comprato l'antenna e tutto quanto. Sì che. KK, avanti qua. Ma 5 domande e una si può sbagliare, mi sembra, così. No, devi rispondere al 60%, quindi devi rispondere a 3 domande almeno. I 4 rapinatori. Capito. E hanno i 4. Perché ho sentito Roberto che dice che ne aveva sbagliata una, però è andato bene. Sì, è più facile così a quanto ho capito. Io non l'ho mai fatto online, quindi non ti posso dire. Però a quanto stava dicendo Roberto è così. Non essendoci una cassaforte. Sì, vi dicono a vedere chi è la busta, che voi. E dentro la busta ci sono le domande che si devono fare. Molto ci vuole. Però vedi, Claudio, io non posso sopportare che abbiano parlato così nei miei confronti. Cazzmania bucciato due volti, non lo so, qui si va in cucina. Ma stava scherzando, Luca, dai. No, io sono sicuro che hanno parlato in questi termini. Sono sicuro. Se no Luca me l'aveva detto, mica stavo scherzando. Ma come faccio? Vuol dire hanno parlato in quei termini, hanno parlato. Perché lui stava dicendo che aveva molti genti stamattina che lui non vende roba a quelli di Sassari perché sempre si mettono a parlare, a dire va via Ghiccio, va via Ghiccio, quando la roba era nuova. Lui stava dicendo così, Luca, correggimi se sbaglio. Boh, io non l'ho sentito quello. A me mi ha detto così Luca. Poi adesso mi è uscito un bizzarro che mi ha disgustato al 100%, mi ha disgustato qua. Che vadano a dire cose che non sono vere, perché io se no ti pare che mi sarei iscritto all'associazione. Mi avrei dato come ho fatto le altre volte e basta. Ti pare se avevo due in corsi mi ero iscritto. Vuol dire che in corsi non ne ho. È quello, ma per dire, poi non conosco nessuno che mi possa mettere in cucina. Guarda, le uniche persone che parlo mi sono Claudio, Gianfranco, Giulio, cazzo, Luca del Monte, però a me così abbono in cucina, non viene, cioè non conosco nessuno, è quello. E poi chissà di dove sono questi ingegneri scrutinatori, nessuno lo sa, se sono da continente, se sono da qua, se sono boh, e chi lo sa. Infatti, perché la commissione viene nominata dal ministero, non lo sai da dove sono. Quindi cosa cavolo Zecchi in Cuzzi? Non saranno. E quando entri in ambulanza? E infatti non sai chi siano, quindi non. Cioè, la vedo dura su quella teoria, è molto difficile, insomma. Comunque, vedrai che già passi, eh? Di solito la prima non va, la seconda e poi già fa. Anche mio figlio alla prima sessione non era passato, ma allora c'era la telegrafia ancora, adesso non c'è più. Non era passato, la seconda poi è andato bene anche in telegrafia. E infatti, adesso non c'è più, è più facile, però io la telegrafia mi ho comprato anche il tasto proprio per allenarmi. Cazzo, io mi ricordo c'avevo anche un bel tocco col tasto verticale, cavolo, era chiara la nota e tutto. Infatti mi ho costruito lo scillofono proprio per usare il tasto. Bravo. È anche un gusto saperlo usare, è anche un gusto. io tanti anni fa l'avevo imparato, poi l'ho mollato e non mi ricordo più nulla, ce l'ho anch'io il fatto lì, conservato lì, non l'ho più usato. Male è fatto. Se lo molli sei bruttiddu. Comunque io mi ho comprato uno di questi assi militari, quelli tipo Junker, quelli che hanno il tappo. Ma ho fatto lo scilofono, adesso proverò a esercitarmi, sempre se passo. Ne stavo parlando anche con Giulio stamattina. E te vai, devi essere positivo, perché io ho preoccupato e gli ho detto... Io, gatta, vado con tutte le buone intenzioni, però se dopo ti capita una cosa che ti è sfuggita e non la sai, li bocciani, a giudizio, non è così? A chi è molto vasto il programma, io già ho studiato già, e come si è studiato? Sto ripassando fino all'esame, ripasso lo stesso. Adesso vediamo un po' come va. Comunque Luca mi deve dire a vedere chi è la persona che gli ha detto che io c'ho gli incuzzi. Perché così non va bene. Forza Luca, togli il rospo. Le sto dicendo che passa, se te lo sto dicendo. Vedrai, va bene, dai, ok. Ti ho mandato un messaggio, l'ho visto adesso. Guarda, se ti piace questo bambino. Che abbassa un po'. Cosa ne so, non ho toccato nulla, già sto entrando poco, magari pulendo l'ho spostato un po'. Vedi Natalino come si sente bene, chiaro. Stacca il processore, boh, è quello del microfono saponete, e quando attacchi il processore probabilmente non ce la fa, capito? O metti il 60, boh. Ma sei sempre andato bene, perché adesso non deve più andare. Te l'ho detto anche la prima volta, avevi staccato il processore, mi sembra di dire liscio, bello, preciso, perfetto. Boh. Ma sta strappando, che cosa fa? No, sembra il saturo, capito, tutto gracchiante. Ho abbassato appena appena, ma chi com'è? No, ha cambiato appena appena. Guarda che non ne manca uno, vedi, però è migliorato, è chiara, capito? Sì, adesso va meglio, molto meglio. Non devi alzare la voce, perché sennò vai a gracchiare tutto quanto. Lo dà molto senso a entrare adesso, magari come l'ho pulito col pennellino e si è spostato un po'. Natali, come mi senti tu? Ah, io ti sento bene. È il microfono palmare, quello normale. Va benissimo. Quell'altro non lo attacco perché non ci sta qua, bisogna che modifico la scrivania. È un macello, non c'ho più posto. Ma li sentite i russi? Li sentite i russi? No, negativo. Обычный воскресный эфир. Я всегда сижу, никому не трогаю, читаю свои придуманные смски. Забегает охранник, у него футболка на лице забита. Он говорит, Sono al telefono, un attimo. Stanno sul satellite. Sul transponder pirata, sul sacco. Claudio. Sì, sono qua. Questo è il microfono normale, il microfono suo. Vedi un po' come mi senti, com'è. Sì, io ti sento sempre. Già va bene. Il mic gain è A2, ce l'ho. Microfono normalissimo. MC43. È uguale a questo. Sì, uguale. Chiava, vabbè. Però mi inviate il microfono a palmare a me. Esito. E io intanto da qua me ne devo andare, devo spostare tutto. devo spostare tutto al piano di sopra, ma che mi sto facendo la mia stazione su, un po' per volta, adesso poi tempo cattivo, non si può fare niente. Me l'avevi accennato infatti, meglio così. Non è grande il posto, ma diciamo che sarà all'incirca un 3x3 con lo spazio, ma me lo faccio bene, insomma già dovrebbe starci tutto bene. Almeno infatti sei più comodo, diciamo, dai. Notifiche. Caspita, mi sento umido a furia di piovere. E varie da fare. E mi sa che neanche per domani. Ma ho visto che ce n'è per tutta la settimana. Addirittura. Aspetta, metto una cosa qua, se no sbatte la gola. Massimiliano, ci sei? Natalino! Ce n'è sì. Che affollato. Ah, ma io ho sentito qualcosa di splattere, se no aspetta che guarda a vedere dove sono. Sì. No, non c'è nessuno. Sicuramente si sono andati via, perché ho sentito che hanno chiamato Natalino. Non c'è più nessuno. Via che ha fatto usa mo sembra fa io. Fate ottimo. C'è qualcuno sul 10? C'è qualcuno che vuole entrare sul 10? Mi pare che me la palette. C'è nessuno? Io l'ho fatto per quello. La radio buona è questa qua, questo è il Galaxy. Sì, amplificata, un po' metallica. E vabbè, questa qui, la capsula di quelle. Di quelle buone, dai. Quelle che usano il Tanner, eccetera. Sono quelle capsuli. Oh, ciao, va bene. Tanto per salsa viene pizza per imboccare. Perché è troppo alta forse anche, aspetta. Guarda se lo abbasso. È buono sempre. Kappa. E adesso lo allontano dalla bocca, forse ce l'avevo troppo vicino. Per vedere come devo modulare, se stare lontano o se avvicinano alla bocca. È chiara, sempre perfetta, bella. Io la mattina per andare lì a fare quella visita là, passo sempre vicino alla casa tua, perché mi viene di passaggio. E quando vado via dall'ospedale, passo in quella sempre la zona tua per fare prima che taglio tutto taglio, non trovo il semaforo e niente. Dall'alto scendendo vedo tutto anche il mare, c'è una bella visuale tu mi. Altro che io sono che casino che. Sì, è vero, c'è tutto il mare davanti. E io anche da casa lo vedo il mare, vedo le barche, tutto. Guardavo, ho messo la testa da parte mia, le balle, ecco perché io sono coperto con... Comunque in giri mi arrivavo a Santiago, non mi è arrivato a me, aspetta quando ho messo questa antenna però che non sono stata. Ma almeno proprio il misma è zero, a Santiago 1-2 più via la radio. Eugenio si è cambiato anche l'apparato, adesso c'è un Kenwood, quindi anche quello più potente, c'è 50 watt. Allora è diverso, è ovvio che arriva più forte allora. C'è 140. Chi è che vuole entrare? C'è una capisca. Stava microfono, 1, 2, 3. Cioè non ha giù un peso, né break né nulla, 1, 2, 3, 9, 3. Sappiamo tutti così, aiuto. Ma forse era displatta. No, non c'è questo canale, 9,20. Adesso no, è displatta. Si è messo su 9 a fianco, e prima era qua su 10. E il gusto di cavolo. In caso sia fatto così. Certo, sto qua. Buonasera, Luzza. Entra, fischia. Vabbè, scusi, quando sentirò lui la cara lo farò anch'io. E non mi vedi, se chi può essere? A me si fa Tino, tuoi. No, non penso. Tino educato entra col break. E allora potrebbe essere cosa, Flipper? Ma, sì. E vabbè, comunque. Ho lasciato questo che c'è la gente. E vabbè. Buono così. Siamo qua. Cavagava. E vabbè. Adesso mi posso, ho scaldato quello. Poi c'ho anche l'altro da provare. Perché nell'altro ho messo il tarlo Super Sidekick. Adesso mi faccio una bella cosa invece. Metto tutti i baracchini, quelli più andanti, no? Anche quelli piccolini, quelli vecchi, eccetera. Tutto un blocco, 500 euro più o quanto. Così mi libero quello cazzo di armadio a muro perché mi serve qua. Mi tengo lo Zodiac, mi tengo questo grande, il sac 2, 12. Mi tengo il Galaxy, mi tengo il Cobra, mi tengo quell'altro, metto il solito, tutto la montezza. La roba piccola ti fai. Sì, è qualche stazione fissa di quelli mi piace proprio, vici, vici, vici. E la sua ex funziona, tutta blocca, tutto buono, dico, io tocci, poi c'è troia. Tutto funziona. Cosa? Tutto funzionante. Beh, perfetto, semi nuovo, cavolo. Ia, ia. Faccio un bel pacotto, io. Adesso lo metto stasera, faccio le foto. Uno sopra l'altro, faccio la bella stato uscita, ricomincio, perché se tutti faccio con lo sconto 4,50 al volo, quindi ma il volo se lo puoi aumentare ancora di più. Tu invece prendi tutti quegli apparati, ti prendevi un bel Kenwood e c'avevi un apparato signore. Gianni, te l'ho detto l'altra volta, te lo ripeto. Per la poca gente che c'è in frequenza e caga cazzi, chiaro chiaro, no? Che non mi interessa niente, non ne vale la pena comprarmi un Kenwood. Io per parlare con te, ti telefono e faccio una figura, capito? Tanto, entra sempre lo strozzo, ti muovo la portante, ma non se mi ne ha fatto la baracchina a me. Non tengo solo per ascoltare, basta. Per il mio negozio l'ho venuto, quindi. Vabbè, è così. Cosa me ne posso pigliare un Kenwood? Se l'avevo preso, l'avevo preso da prima, ma me l'avevi fatto arrivare da fuori, perché qua a Sassari o in Sardegna non può fare giù nulla, ma cosa vuol dire nulla? Nulla da nessuno, assolutamente no, potevi pagarlo anche 1.000 euro, non mi l'ha fottuta, però fuori, ma qua zero. Vabbè, ma con i soldi che comprati quegli apparati ci sarebbe uscito un Kenwood. Certo, ma non me ne frega niente, l'ho fatto per cosa, per avere, diciamo, ciò che la vetrinezza potrebbe mettere in vetria, ma non me ne frega niente, dai, è uno sfizio. Cazzo, mi sono comprato due notte, poco tempo, me ne sono venduto in una settimana, tutte e due, preso un po', preso su che lotta, no, me ne frega niente, già, capito? Io compro, disfo, faccio, rifaccio, adesso niente, più là, metterò un bel computer, e vuol dire che il baracchino userò ancora di meno, penso un po', non me ne faccio nulla. Vabbè, niente, comunque quell'affare della Panagamma lo devo fare per 10 giorni, contiamo da domani, quindi domani è mercoledì, giovedì e venerdì, perché fino a venerdì sono 3 giorni, più altre 7, vabbè. E vabbè, dai, magari riesci come un grillo. Vabbè, non mangio lo stradone che c'è meglio, so che sono peccato di mia, però ho notato che se sono seduto un bel po', e mi alzo un po' zuppico, mi fa male, poi mi passa, capito? Quindi, e ce l'ho gonfia ancora. Adesso questo coso che faccio, mi fa anche gli ultrasuoni, ginnastica, e poi questo affare che mai non mi ricordo più, c'è un metrano che dice fa bene, la gamba va dentro una specie di tubo. Ah, tipo... coso, come si chiama? Ne ho capito. Sì, sì. Ma questo tubo cosa va? Emana coso, radiazioni oppure altre cose, no? Laser, cosa ne so? Elettromagnetico, poi non lo so. Magnetoterapia. Sì, magnetoterapia, sì. L'importante è già che mi si sgonfia, l'ho operato, perché se mi ha sufficiente, se mi fa niente, non mi taglia neanche, a cazzo è casino. Io ogni giorno la guardo, poi con me la mi accarezzo piano piano, poi mi passo anche la crema. Ma non mi piace così gonfio, perché infatti cammino male, cavolo. Ma scusa, ma colore brutto, viola, nero o no? È rosa. museo, come la sapete, però si vede che è più voce dell'altro. Ecco perché non riesco bene a piegare e salire le scale come Dio comanda. E se le devo fare a uno di cari, o a uno. Ehi, vabbè, se è roseo non è niente di che, ricordate che non sia nero, che se no è in coso, no, non va bene, dai. Se non è nero già va bene, dai. Se no è negro si cazzo è peggio. No, ma intanto è roseo, va bene, non è nero, io lo guardo sempre perché. Allora c'è cavo, lo metto anche più da un po' in alto perché si sgonfia con l'altro cuscino sotto e piede più in alto. Ma niente, niente, bisogna fare questa cosa qua, vediamo un po'. Però è che il dottor Pericano si è deciso di farmi fare cosa per il piede. Veramente lui ha detto cosa facciamo, mi trapezza la mano, il braccio o il piede, e ho detto guarda faccio il braccio perché non ne posso più mi farci male. Lei ha poi fatto 20, oggi ho finito, 20 elettro. Non si chiama, non metto più. Comunque, poi ho fatto 8 laser, poi altro 10 di questi che mi ha messo a fare qua ed era sentivo la vibrazione, già mi ha alleggerito poco a poco. Se giro il braccio vedo le stelle. E infatti mi ha detto adesso con la bonanza, dice, a lei vi conviene fare una risonanza magnetica così vedere in realtà cosa c'è. Capito? Io dopo la caduta già mi va di male, oggi ho chicciato che nevo. E anche a me con la risonanza magnetica, dalle lastre non si vede fare nulla, Tony. Con la risonanza magnetica ho scoperto che c'è volosso in necrosi e che c'era anche liquido. No, io ho fatto, no, a parte la lastra perché adesso c'era qualche frattura, non c'è niente. Poi ho fatto l'ecografia e dice, mi ha detto no, ha pagato 70 euro, dice c'è reumatismo, che è reumatismo, ma vuoi fare di sì. Dice sì, praticamente la caduta te l'ha risvegliato e si è tutto infiammato. Sì, ma io dico questo, cazzo, sono quasi 4 mesi già, oggi sì, ci faccio 4 mesi e basta. Allora niente, non ho messo la famiglia, poi vedrò bene, in realtà cosa c'ho, cosa non c'ho. Ma te ti scroccano le ossa quando cammini? No, tranquillo, non male. Allora non è il reumatismo, se no ti avrebbero fatto trac, si sente. No, niente, il fatto del braccio, perché mi stai riscando, sono vicino al microfono, sono altro parlante. Niente, allora se io giro il braccio dietro, quando mi metti i pantaloni dietro, per mettere la camicia dietro, la maglietta, si infila la mano dietro così fianco, io con la destra posso fare la sinistra, non riesco a farlo perché vedo la stella. Quando mi colico, se mi porto un po' il timone verso di me, con la sinistra vedo la stella, lo giro tutta la persona, lo giro perché mi va a zemare. È tremendo, guarda, è un casino, non posso alzare il braccio grosso, levo leggermente più di prima, quello sì, però non diciamo del tutto come altro che il sinistro, cioè il destro, sinistro mi ha male. Insomma, sono un muscolo beppi, gamba sinistra, mano sinistra, e cioè il braccio sinistro e mano destra, che c'è il trapezio di sacco, un casino. Io invece per inchinarmi, non riesco più a inchinarmi, mi fa male. Quando vado a inchinarmi mi devo bloccare a un certo punto perché di più non riesco a farlo. No, io allora la mattina non mi alzo, piano piano già, perché ne risento dall'operazione che ho avuto, che mi ha messo quella roba lì, capito? Ne risento, la verità. Ma come poi mi alzo, 2-3 secondi, poi faccio due passi, sono a posto, non c'è più dolore. Mi sembra strano che Manuele mi fa male la ferita, sì la ferita, a me pare più che panza, allora perso di fianco e dietro giù. A me pare che panza, hanno dato mezzo taglio e più dietro ne ho tre tagli. Mentre lì a me la ferita proprio non mi fa zemare, a lui mi fa zemare. La ferita gli fa male ancora. Mi sembra strano, per me sta sbagliato, no, mi fa la ferita, io non posso chinarmi, non posso lavorare. Domanda di pensione, ma non gliene danno, non è per la dottoressa mia, lui c'è la mia dottoressa già. Per queste cose non te le danno, no? E poi c'è anche operato, quindi come fa a dargli la pensione? È anche giovane, ma... No, aumenta, con chi operano aumenta la... Se è il contrario, ma non è così. Adesso praticamente io, quando mi opera la gamba, mi aumenta l'invalidità. Gianni, allora, per darti qualcosa mi hanno già detto il patronato. Deve avere un detto patente, l'accompagnamento, però ti regala pure patente, ti regala. Infatti. Allora, ha letto bene il foglio mio. C'è scritto da 66,7 o 9% a 99%. Lì è come che c'è il 99%, maestro, per contare il secondo numero. Però facci come che c'è il 5%, perché intanto, ripeto, non li tocca niente, a meno che c'è acceso forcetto, ma poi succede che gli dicono la pappa inquinata, no, no, la storia così va bene così. KK, eia. Sì, sì, infatti, tu hai 99, non è 73, c'è 99, lo trovate al 100% per non darti tutte quelle agevolazioni, capito? Infatti non posso, il bollo lo devo pagare la macchina, se no non pagavo il bollo della macchina e altre cose. Ma perché mi stai riscattando, non ho capito, ragazzi. Ecco, facciamo così, dai. E quindi niente, già, devo stare solo, come sono, senti, ma te ne mangi? Ti ho detto, ho fatto un'altra, che quella infermiera, c'è il dottore, c'è una visita, ma mi ci vuole fare, c'è ancora questa presenza, ma veramente non ne ho mai preso, certo non so come ha il muso, e non so se buccia di dire, quella è rimasta a sinersitia, e infatti ho detto, se no per imborgare pure la patente, poi l'altro dice, ma guarda quanto sono mascalzoni, le dita non tutte, sì, ma a me non mi butti di parola. Sì, poi ti fanno delle domande strane, ma sta guidando, capito, queste cose qua, per farti fare l'esame. Ehi, dice, sta guidando, ho detto no, veramente non sto guidando perché sono da luglio, ho avuto l'incidente, ho fatto una malea, lo posso mettere in riserva perché sono sotto la tappeta di soltanto. Ha visto anche i documenti all'ospedale, quindi tutto le ho fatto vedere, non c'è problema, infatti l'ho segnato. E quindi dice, com'è venuto qua? Ma veramente mi ha accompagnato mio figlio, guarda. Dopo lo chiamo quando ho finito e mi faccio accompagnare. A volte quando vengo qua mi accompagna un amico mio, lo chiamo. A me furti guacchi. La tua volta volevo farti entrare dentro. Mi ha detto praticamente la signorina che c'era, si è avvicinata, guardi che può far entrare dentro la macchina. Lo chiamo il vigile, non l'ho voluto io, capito? Ci sta anche più a vedere, ma non si più fidare, non voglio disturbare a nessuno. A me mi ha detto subito quando sono entrato, ma che male, che gamba fa male, è solo a sinistra, la colino, la temperatura sulla destra, io perché così già, e tu invece la prendevi viceversa, io non riesco a portarla lì, mi sento più alleggerito quando metto sulla destra per la gamba sinistra, infatti non mi ha detto nulla il dottore, ha visto poi tutti i reperti dell'ospedale, fratture qua, fratture là, dice che ce l'hanno fatto bello. No, è così, cioè se ti fa male la sinistra lo devi portare alla destra il bastone. E viceversa. E invece tu ci avevi sbagliato. Sì, infatti mi ha detto cosa, mi ha corretto il tuo piede. Io se l'ho visto anche io, la forma nazista ce l'ho sempre detto la sapeta, perché alleggerisco di più, è così già. Ma io pensavo veramente che non caricando la gamba che ti fa male, cioè mettendo il bastone al posto della gamba che ti fa male, non caricandola risolvevi il problema, invece non è così, per alleggerirla devi prendere dall'altra parte, e in più me l'ha anche sollevato, me l'ha sollevato di un mucco. Vedi, anche io lo stesso ho provato in casa, a sinistra lì veniva male, no, vado un video, no, lo prendevo a destra, sembra che era più leggero, sì, riuscivo a camminare meglio, infatti io sono abituato così, poi se invece era la gamba destra lo prendeva a sinistra il bacolino, ma perché un bacolino è la tappella. Sì, comunque l'ho pagato 35 euro le stampelle, bene, però non ci erano prese. Le stampelle sono pericolosissime quando piove, quando c'è bagnato, io mi stavo per troncare le ossa, lo sai, aveva piovuto e mi è andato avanti, stavo per cadere a faccia a terra. Non me lo dire a me che io sono venuto in casa, aveva appena lavato. Senti, quella gomma è pericolosa, ci vogliono quelle altre zampe, ci volevano veramente. E quindi, niente, infatti allora, quando sono andato poi via Zaffarino io, a fianco a Lina, per prendere Visolina, perché adesso da oggi in poi mi ha detto quando sono all'ultimo che ho preso il sentimento, a trovare la farmacia, non c'è bisogno di venire qua. Allora, scendendo, prima delle guerre giurate, tutto, ci sono le condizionature, tutto infuso, preso, sono andato sul marciapiede e poi sulla strada. A me non mi frutti, perché se posso poi io con la tappera scivolo devo tomare. Che ci serve da denunciarmi, perché ci vorrebbe un contenitore e non deve caderci un marciapiede l'acqua. Fate così. Comunque sono pericolosi, quando c'è bagnato è un casino con le stampelle, se tu devi camminare con le stampelle è meglio che non esci perché se no quello di tronchi rossi, perché ti vanno avanti, tu come le punti in terra, loro vanno avanti e ti fanno perdere l'equilibrio di corpo. Sì, perché scivola, già. Aspetta, ci vogliamo con le zappelle a tre piedi, allora va bene, allora non scivoli, perché fa più forza, capito? Invece con quel gommino, fai calendare, si scicheggia, no? Non è stato più usato, anzi sono in cucina, mi c'è dopo bene le murichecce e le conservo dentro l'armadio. Comunque, me le conservo che non si sa mai nella vita, quando sono più vecchia poi non ve lo posso camminare, uso quelle lì. E le mie sono andate prima una mia a me, poi una mia collega, poi le ho date a te e poi sono di nuovo passate a me. Cazzo, sono affezionate a me quelle stampelle. Ma io ne ho fatto questa pelle che è stata lungo, capita. Sì, allora io non ero ancora operato, io con i dolori, ma grazie a Dio. Poi dopo operato senza ho usato le stampelle tue e dirò che l'aeroporto, la verità, me l'ho visto così, sono tomato la sedia, mi hanno accompagnato loro, non ho fatto la fila per salire sull'aereo, poi è atterrata cosa bella. Non sei uscito per niente già. Adesso? Adesso sì. Ho schiacciato male. Come ti stavo dicendo, che lì c'è la Croce Rossa che praticamente come viene qualcuno che sta male lo mettono sulla sedia a rotelle. Sì, c'è un aiuto, guarda, sia a Bologna che a Milano su queste cose qua. Veramente, per le persone disabili sono molto premurosi. E non passi manco la dogana, pensa a poco. Certo. E vabbè, uno se vuole allora può spacciare droga, roba del genere, lo stesso se la buona in busciacca e via, e non si la pizza. E vabbè, comunque meglio passare alla dogana e essere tranquilli, tu. Cosa? Ho detto meglio passare alla dogana ed essere tranquilli senza avere nulla. Ma che è questa droga? È tutta droga, pacca. Perché c'è stanciata che con sede rotelle e poi fai droga, le rugani, chi ha di droga, di piaga, di femmari, tu ti fai mangiare, finta la sede rotelle ti fai mangiare. Oh, yeah. Ma tu lo sei cuocuore, quindi? No, io, allora, io ricordo che odiavo, cioè odiavo, ho tentato tre volte per smettere di fumare, fino a che ce l'ho fatta. E sono l'uomo più felice del mondo, sono risparmiato e salute risparmiata, c'ho più fiato e sono anche meglio. Idem, io sono 15 anni già che ho smesso, sono di più puro. No, io da 2015, poi mi ha raccomandato l'ospedale, tanto è vero che mio figlio quando è venuto alla strada, tua mamma ha detto, ehi tu vai a fare, come dice qua, minimo tre pacchetti che farei, cioè tu hai, allora tu hai smesso, scommetti quello che vuoi, lascio che è troppo e io non fumo più, e fa con me più papà. Infatti, e magari sono anche le sigarette perché ti hanno fatto avere quella roba lì. No, perché mi è entrata la sonda dal braccio sino al cuore. E io voglio mettere il video del cuore mio, perché me l'ho fatto firmare e mi hanno detto che è entrata la sonda con la telecamera. E mentre lì fumavo, così, complimenti, c'è le arterie pulitissime. Quindi così, però, ho smesso già da 10 giorni fa. E ha fatto bene, comunque non fumo più. Le do consiglio, oggi non si preoccupa che non fumo più, che mi sono consultato. Quindi, grazie a Dio, c'è le arterie pulite, meno male. Vabbè, le arterie si intasano anche per altre cose, per il diabete, si intasano per la roba grassa, eccetera, eccetera. Ma se uno ce le ha pulite è sempre meglio, Quando si intasano, generalmente per dire succede che si formano delle placche, specie nella zona della gola e nel collo del piede, si formano delle placche. Mi fai fa pagare il certo cazzo pure. E dice a vedere, dai, così che faccio scemo, vedi? Vabbè, dai, già, ci sentiamo che mi guardo anche un po' caduta libera. Ok, dai, fammi bene, buona cena quando la fai. Adesso c'è mille, ciao. Ciao, Tulli, buonanotte, ciao. Ciao, ciao.